Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La storia dell'energia elettrica è iniziata, lo abbiamo studiato tutti a scuola, con Alessandro Volta, che nel 1799 realizzò la prima pila sovrapponendo tanti dischetti di rame e zinco alternati e separati da dei dischetti di feltro imbevuto in una soluzione che può essere o acida o alcalina. Da allora le batterie elettriche basate su una reazione chimica come questa di Volta non ci hanno abbandonato più. Ma nonostante una frequentazione lunghissima con questi oggetti, qualcosa come 200 anni, una ricerca svolta da IRP in collaborazione con Duracell. IRP è il principale sistema collettivo europeo di raccolta dei rifiuti elettrici e elettronici, di pile e di accumulatori, ed è un sistema presente in 13 paesi del continente. Ebbene, questa ricerca ha evidenziato che tutt'oggi facciamo un utilizzo abbastanza pessimo di questi oggetti. Parliamo delle pile usa e getta, che sono ancora diffusissime e che a quanto pare buttiamo via con ancora una buona dose di carica. Ne parliamo con Riccardo Fraticcioli, che è responsabile d'area di IRP Italia. Buonasera Fraticcioli. Buonasera a lei e grazie anzitutto. Ma grazie a lei di essere qui. Dunque, iniziamo con i numeri che vengono fuori da questa ricerca. Quali sono quelli più significativi? I numeri più significativi ci portano ad evidenziare che circa un terzo delle pile alcaline viene gettato pur avendo ancora un residuo medio di energia pari al 40% della carica iniziale. E poi ci sono anche dei casi un po' estremi però che si registrano, vero? Sì, ci sono dei casi un po' estremi perché noi abbiamo riscontrato pile gettate con ancora presente il 60% della carica iniziale. Ecco, ma com'è che avviene questo fatto? Com'è che buttiamo via delle pile che vanno ancora bene? Questo avviene essenzialmente perché oggigiorno è frequentissimo l'utilizzo di apparecchiature elettroniche aventi un alto consumo. Quando parlo di apparecchiature con un alto consumo mi riferisco ad esempio ad una fotocamera digitale oppure al controller di una console. Gli stereo portatili, le radio portatili, sì, anche, sono quelli altri. Quelli grandi certamente. Dicevo, queste apparecchiature potrebbero interrompere il proprio funzionamento quando nella pila è, come dicevamo, ancora presente addirittura il 60% della carica iniziale. D'accordo, quindi in realtà noi vediamo che l'apparecchio smette di funzionare, diamo per morta la pila quando in realtà ancora magari un 60% di carica. Questo perché gli apparecchi che assorbono di più hanno bisogno che la pila sia a piena carica per funzionare in pratica. Esatto, e dicevo questa energia residua che ha queste punte del 60% ma in media si attesta su circa un 40%, che comunque non è poco direi, assolutamente no, è ancora perfettamente idonea a mandare avanti a lungo un piccolo elettrodomestico come può essere un telecomando o una sveglia, che hanno un fabbisogno energetico chiaramente ridotto rispetto alle fotocamere o ai controller delle console. Quindi insomma un buon suggerimento: quando uno di questi apparecchi ad alto consumo smette di funzionare, noi togliamo la pila e sostituiamo magari la pila del telecomando o quella della sveglia. Si possono o comprare le pile con la tecnologia PowerCheck oppure fare direttamente questa operazione. Dalla console, dalla fotocamera, le passiamo al telecomando o alla sveglia. Ecco, lei diceva perché ci sono dei produttori di pile che appunto realizzano delle pile che hanno una sorta di banda che corre lungo la pila e che segnala il livello di carica. Ecco, senta, voi abbiamo detto che vi occupate della raccolta di questi rifiuti elettronici, che tra l'altro sono rifiuti molto inquinanti se abbandonati nell'ambiente. Come va la raccolta? La raccolta recentemente ha avuto un ottimo impulso per la partenza dell'apposito centro di coordinamento nazionale pile ed accumulatori. Nel 2011, per quanto riguarda le portatili, abbiamo avuto un immesso di circa 29.000 tonnellate ed un raccolto di circa 7.500. Siamo intorno al 25% in pratica. Sì, siamo intorno al 25%, che è l'obiettivo iniziale previsto dall'apposito decreto, che è il 188 del 2008, regolante appunto i rifiuti di pile da accumulatori. Certo, dovremmo salire con la raccolta perché già dal 2016 dal 25% dovremmo passare al 45%. quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare, perlomeno per rispettare questi parametri, che poi sarebbe bello anche superare. Come fa il cittadino a raccogliere le pile? Perché a differenza di altri rifiuti, la raccolta delle pile non è così tanto avviata come plastica, vetro e quant'altro. Allora, il cittadino deve avere un minimo di pazienza e lo ringraziamo sin d'ora per questo. La pazienza consiste nel fatto che a casa dobbiamo munirci di un piccolo cestino, di una bustina, di una scatolina, la riempiamo con le nostre pile e quando è piena ci facciamo una passeggiata all'isola ecologica comunale e le gettiamo lì, oppure nelle città che hanno gli appositi contenitori possiamo appunto utilizzare questi, oppure ancora possiamo portarli presso i distributori, perché ai sensi del decreto 188 chiunque vende le pile è tenuto a raccogliere anche quelle a fine vita. Ecco, quindi se uno deve comprare delle pile nuove, gli porta tutto il sacchetto o c'è l'obbligo di portare un numero di pile uguale a quello che si compra, tanto per capire? No, comunque chiunque vende è tenuto a raccogliere. È tenuto al ritiro. L'usato. D'accordo. Ecco, senta, che cosa si tira fuori da queste pile una volta che entrano nel meccanismo del riciclo? Da un corretto trattamento delle pile possiamo recuperare lo zinco, che è passibile di dare vita appunto a nuovi prodotti zincati, come ad esempio le tubature dell'acqua, il nickel, passibile di dare vita a prodotti in acciaio, inossidabile come le pentole, e infine appunto il piombo, utilizzabile per realizzare nuove pile. Grazie Fratticcioli. Grazie a voi, buona serata a tutti. Appuntamento a domani.